9 in punto. Eccoci qua con 9 in punto. Oggi parliamo di evasione fiscale, di fisco, e parliamo di paradisi fiscali. Da un lato perché l'evasione fiscale continua a costituire un grande problema per la realtà italiana, un problema la cui soluzione risolverebbe immediatamente tutti i problemi dei conti pubblici, e perché i paradisi fiscali sono ovviamente in parte un modo per facilitare l'evasione fiscale. E sui paradisi fiscali ci concentrerà nei prossimi giorni l'attenzione dei G20, dei grandi eventi paesi, soprattutto perché Francia, Germania e Gran Bretagna hanno chiesto contromisure effettive e operative al più presto per sanzionare, per limitare le possibilità operative di quei paesi che non rispettano le norme internazionali, le norme soprattutto che dovrebbero permettere una maggiore trasparenza dei flussi finanziari e quindi la possibilità di colpire i redditi che cercano di evadere il fisco dei grandi paesi. Ne parliamo oggi aspettando le vostre chiamate all'800 24 0024, il numero verde per le telefonate degli ascoltatori, e il 349-238-6666 per i messaggi SMS. Ne parliamo con due inviati del Sole 24 Ore, Vittorio D'Arold, buongiorno Vittorio. Buongiorno a voi, grazie. E Ionello Mancini. Buongiorno. E con Lino Terlizzi, buongiorno Lino. Buongiorno. Collaboratore del Sole 24 Ore dalla piazza finanziaria di Lugano. Con Roberto Ippolito, buongiorno Ippolito. Buongiorno, buongiorno. Giornalista, autore per Bompiani del libro Evasori, chi, come, quando, perché, ce lo spiegherà tra poco, un'inchiesta sull'evasione fiscale in Italia, e con il professor Carlo Lottieri, buongiorno Lottieri. Buongiorno. Lottieri è docente di dottrina dello Stato e teoria generale del diritto all'Università di Siena e uno dei fondatori dell'Istituto Bruno Leoni. Inizierei da Ippolito. C'è ancora l'evasione fiscale in Italia, Ippolito? Più che c'è ancora, sta assolutamente peggiorando. Mi spiace dirlo, ma è assolutamente una realtà che i numeri lo dicono con grande evidenza. Quindi mi potrei definire un autore deluso, perché dopo tutto quello che è denunciato dal libro e la valanga di evasione, i dati sono assolutamente peggiorativi. Per non annoiare con i numeri, ne do due o tre velocissimi per poter comprendere quello, riuscire a spiegare quello che dico. La pressione fiscale, sono documenti ufficiali del governo, nel 2009 sfiorerà il record assoluto della storia dell'Italia, perché arriverà al 43,4%, il record fu nel 97 con la tassa sull'Europa. Contemporaneamente, nei primi sei mesi dell'anno, le entrate tributarie, documento di programmazione ce lo conferma anche, stanno scendendo di 2 punti, 1,9 sono i dati ufficiali, 2,1 in calo è la previsione per l'intero 2009 del documento di programmazione. Se la pressione fiscale sale e le entrate tributarie scendono, la conseguenza è di assoluta evidenza, non c'è alcun dubbio. Una riprova fra le tante possibili: l'IVA nel primo semestre ha fruttato il 10,8% in meno. Non mi risulta che la recessione, che pure sia così grave, o il calo dei consumi, che pure sono gravi, sono a questo livello. Ecco, però Ippolito ha già parlato appunto di una recessione che ha colpito l'Italia, così come ha colpito tutti gli altri paesi industrializzati. Indubbiamente questa recessione ha comportato una diminuzione dei redditi, e quindi in questo senso potrebbe essere spiegata la riduzione del gettito fiscale. E d'altra parte le esigenze dello Stato non sono diminuite, anzi sono forse aumentate, proprio per rispondere con maggiore spesa pubblica alle esigenze dettate dalla crisi. Quindi le cose potrebbero tornare anche senza l'effetto sull'evasione fiscale, Ippolito. No, mi dispiace assolutamente, devo contestare nel modo più netto, chiedo scusa. No, prego, il bello del dibattito è questo. Stavo dicendo prima, il prodotto interno scende del 5%, quindi non c'è paragone con il calo dell'IVA. Poi vorrei che qualcuno spiegasse perché la pressione fiscale aumenta a livelli record, ma contemporaneamente le entrate diminuiscono pesantemente. Poi quelle che possono sembrare opinioni mie sono le opinioni della Corte dei Conti, che parla di maggiore propensione all'evasione. Se volete vi cito i documenti, che è l'ex presidente della, dell'Istat Briggeri, che ha parlato esplicitamente di aumento in, di evasione in aumento, e del governatore della Banca d'Italia nella relazione all'Assemblea a fine maggio, in cui ha sostenuto che c'è ancora un enorme terreno di evasione fiscale. Ma il ragionamento che ascoltavo un istante fa è importantissimo. In un periodo di crisi, se ci mancano anche i soldi dell'evasione e se ci mancano soldi in più provocati dall'evasione, il risultato è assolutamente drammatico. Anche qui in estrema sintesi, l'evasione fiscale oggi è stimata, con le stime più prudenti, e nel mio libro Evasori faccio mia questa stima, pari a 100 miliardi di euro, cioè il 7% del PIL. Il deficit pubblico viaggia intorno al 5%, già solo il recupero dell'evasione fiscale ci consentirebbe di ritornare in attivo. Ovviamente sto estremizzando e nessuno pensa che da un giorno all'altro si recupera tutta l'evasione, è una pia illusione, probabilmente creeremmo perfino sconquassi, però per dire attenzione, in tempi di crisi, e se volete lo esaminiamo, il danno dell'evasione fiscale è ancora superiore, alimenta e moltiplica le ingiustizie. Certo, su questo penso che possiamo essere tutti d'accordo, che l'evasione fiscale sia comunque un danno, sia comunque qualcosa di patologico in un sistema economico. Però vorrei chiedere al professor Carlo Lottieri: in Italia si insiste molto sull'evasione fiscale, abbiamo visto però da questi recenti avvenimenti la vicenda dell'Unione di Banche Svizzere negli Stati Uniti, la pressione che ricordavo prima di Francia, Germania e Gran Bretagna per controllare i paradisi fiscali. Non è un problema solo italiano quello dell'evasione fiscale, professor Lottieri? Certo, non è un problema solo italiano, e il dato che è stato ricordato sulla pressione fiscale record, che riguarda l'Italia ma che riguarda anche altri paesi, perché come diceva appunto lei c'è stata una crescita del controllo pubblico delle risorse private un po' ovunque, legato alla crisi ma non solo, spiega un po' tutto. È chiaro che nel momento in cui i grandi stati vogliono controllare una massa crescente di risorse, le imprese e i cittadini reagiscono di conseguenza, e quindi è inevitabile che a questo punto da parte dei grandi stati, l'America, la Germania, Italia, Francia, ci sia questa guerra contro le piccole realtà politiche, paradisi fiscali, in cui la pressione fiscale è minima o comunque molto contenuta. E questo perché? Perché appunto si vuole aumentare il controllo sulle risorse pubbliche. Che poi questo acceleri e aggravi la crisi è molto probabile, perché questa crisi è effetto appunto di politiche economiche molto espansive, e di fatto questa lotta all'evasione fiscale, che comporterebbe per l'Italia, ad esempio, se fosse realizzata fino in fondo, una pressione fiscale del 50%, no? Quindi questa lotta all'evasione fiscale a livello globale, a mio parere, rientra in questa logica di aumento del controllo pubblico dell'economia, e credo che non produrrà cose positive. Quindi per combattere l'evasione fiscale la sua ricetta sarebbe quella di diminuire le tasse? Ah, non c'è dubbio, questo è un dato evidente. Laddove la pressione fiscale è più contenuta, è chiaro che c'è non solo un'economia molto più funzionante, perché le risorse non vengono collettivizzate e quindi abbiamo un mercato più libero, più dinamico, eccetera, ma abbiamo anche, come dire, una maggiore disponibilità da parte delle imprese e dei cittadini a pagare il dovuto. Ecco, è una strategia che peraltro gli ultimi governi, sia quelli di destra sia quelli di sinistra, non sono riusciti ad avere il coraggio di attuare, professor Lottieri. Assolutamente no, nella logica dei politici controllare il più possibile le risorse, questo si capisce, ci sono anche delle resistenze enormi, come dire, c'è un'inerzia dei sistemi burocratici, numero di dipendenti e così via. In realtà un meccanismo che però spingerebbe in questa direzione è proprio quella della concorrenza fiscale. Se abbiamo un meccanismo costituzionale effettivo, cioè che è in grado di limitare l'assolutismo dei governi, è la concorrenza istituzionale, cioè la mobilità delle risorse e delle industrie. Il fatto che oggi i grandi paesi come Stati Uniti, Germania, Italia, eccetera, vogliono combattere tutto questo non è un bel segno. È anche poi curioso che questo lo faccia gli Stati Uniti, se non erro il Delaware è negli Stati Uniti, e quindi c'è qualcosa anche di molto bizzarro. Dovrebbe forse magari essere un po' fino più coerente la politica americana, perché non si può al tempo stesso avere il Delaware, che come sappiamo appunto per tanti aspetti è un grande paradiso fiscale, e poi invece avere questa politica politica contro Giulia Cayman, la Svizzera e così via. Ecco, lei ha parlato di concorrenza fiscale, professor Lottieri, forse la concorrenza tra Italia, Francia, Germania può essere una concorrenza doverosa, una concorrenza che si muove lungo i parametri appunto delle regole. I paradisi fiscali fanno un po' una concorrenza sleale ai grandi paesi, professor Lottieri. Cioè, la concorrenza tra Italia e Francia, la concorrenza tra paesi che hanno questo tipo di pressione fiscale, di welfare e hanno questo controllo massiccio sull'economia, sulla realtà, di fatto non è concorrenza, oltre al fatto che sono realtà molto cartellizzate. Ricordo negli anni 60 invece che Charles de Gaulle mandò l'esercito alla frontiera con Monaco. Sono queste le realtà che fanno paura, cioè sono, come dire, i veri paradisi fiscali in cui la pressione fiscale è minima o assente, che fanno davvero mettono a rischio la capacità dei governi di controllare, ripeto, in maniera assolutistica le società e l'economia. Il fatto che, come dire, nessuno reagisca a questa guerra di Davide contro Golia è anche, come dire, un po' impressionante. Il fatto che nei mesi scorsi c'è stato quell'episodio, tutti ricordiamo, con degli elementi anche molto squallidi, con coinvolgimento dei servizi segreti, che vide contrapporsi Germania e Liechtenstein e nessuno di fatto abbia reagito, beh, è il segno che le classi politiche dei grandi paesi non vogliono mollare la presa sull'economia e sulla società. C'è che cambi un po' il clima culturale. Ci sono un paio di ascoltatori che le danno ragione, dicono evadere le tasse è un furto ed è un reato, però lo Stato dovrebbe tagliare i propri sprechi, tagliare le proprie spese, ridurre la pressione fiscale, quindi essere non può vessare chi paga regolarmente le tasse. Abbiamo parlato di paradisi fiscali, abbiamo parlato di questa strategia dei grandi paesi di contrastare questa concorrenza dei piccoli, quelli che il professor Lottieri ha chiamato Davide contro Golia, contro i grandi stati, questa concorrenza dei piccoli. Vittorio da Rode, l'Ocse si è impegnato a dettare alcune regole e i paesi ad attuarle. A che punto siamo in questa strategia verso i paradisi fiscali? Sì, nel 2000 l'Ocse iniziò una guerra ai paradisi fiscali attraverso appunto la costituzione delle liste nere, cioè di liste in cui appunto i paesi che non collaboravano, che vuol dire non fornivano delle informazioni alle rispettive amministrazioni fiscali, dovevano messi appunto su questa lista nera per invitarli appunto a collaborare. Poi si creò la lista grigia, cioè quelli che promettevano ma non effettuavano nessun tipo di aiuto concreto, ma insomma avevano detto che si sarebbero messi sulla buona strada, e poi le liste bianche, cioè quelli che collaboravano. Perché nel 2000 cominciò questa cosa? Appunto perché si voleva dare un segnale di maggior collaborazione. La crisi economica ultima, basta pensare che gli Stati Uniti, appunto, di cui accennava anche il professore prima, hanno messo sul piatto 12.800 miliardi di dollari per aiutare appunto l'economia, le banche in crisi, eccetera. E quindi quasi una cifra pari a tutto il PIL degli Stati Uniti di un anno. Allora ecco perché, visto che le cifre di cui si parla, l'unica stima che noi abbiamo è quella della Boston Consulting, che parla di circa 7.000 miliardi che ogni anno si calcola transitano nei cosiddetti paradisi fiscali oppure siti offshore, diventano appetibili. 7.000, di cui 2.000 appunto secondo questa società sarebbero 2.000 solo in Svizzera. Gli altri... In Svizzera, allora la Svizzera è vista dall'Italia, dall'Italia come il paese forse più vicino in cui cercare rifugio per i capitali. Tradizionalmente la Svizzera è una piazza finanziaria. Lino Terlizzi da Lugano segue la realtà svizzera. Come viene vissuto dalle banche svizzere questa offensiva contro i paradisi fiscali, che per l'Italia ha anche l'aspetto dello scudo fiscale che partirà nei prossimi giorni per facilitare il rientro dei capitali dalla Svizzera? Lino Terlizzi. Sì, in parte era prevista questa offensiva, perché bisogna ricordare che già nel marzo scorso la Svizzera ha aderito ai criteri dell'Ocse, agli standard dell'Ocse sulla lotta all'evasione fiscale, quindi ha aggiunto un altro tassello alla revisione del segreto bancario, che c'è ancora, ma effettivamente è stato emendato, ma non da ora, ma nel corso degli anni, quindi in parte era prevista, in parte un po' sorprende, un po' di confusione forse che c'è attorno alla definizione di paradisi fiscali, perché dentro la definizione di paradisi fiscali, definizione peraltro un po' insidiosa, perché da un lato se si parla di paradisi, dall'altro allora bisogna parlare di inferni e purgatori, ma quindi al di là della battuta bisognerebbe definirli meglio, perché effettivamente dentro ci sono delle isolette caraibiche sperdute con le quali magari, con i cui governi magari è anche difficile parlare, non soltanto fare accordi, e dentro ci sono invece delle piazze finanziarie strutturate come la Svizzera, che ha un suo sistema, un sistema democratico, ha un sistema magari discutibile dal punto di vista fiscale ed economico, ma comunque c'è, ci sono degli accordi e ci sono delle definizioni che si possono fare. Quindi sostanzialmente da una parte era prevista, dall'altra un po' sorprende, diciamo, l'aggressività di questa campagna, soprattutto nei confronti della Svizzera, che sicuramente in passato ha fatto degli errori come piazza finanziaria, ma sicuramente da tempo ha mostrato la possibilità anche di cambiare degli aspetti. Quindi convivono un po' tutte e due queste cose. Quanto poi allo scudo fiscale, direi che quello è un aspetto che in effetti riguarda soprattutto il Ticino, Lugano. Viene meno sentito a Zurigo e Ginevra, che sono le due piazze finanziarie principali in Svizzera, come sapete, e lì il Ticino naturalmente sta cercando di affrontare, le ha già affrontate due volte all'inizio degli anni 2000, e ora c'è un po' di preoccupazione tra le banche ticinesi, ma è anche vero che d'altro canto, proprio nell'occasione dei due scudi fiscali precedenti, le banche svizzere nel loro complesso hanno rafforzato le cosiddette strutture onshore, anche in Italia, a Milano in particolare, quindi quello che cercano di fare soprattutto laddove i clienti manifestino la volontà di aderire allo scudo fiscale è di proporre le loro strutture italiane o nel caso ci fossero altri scudi in Francia, in Germania e in altri paesi. Senza dimenticare che la Svizzera peraltro ha fatto degli accordi con l'Unione Europea che prevedono di pagare comunque le imposte anche sui depositi dei cittadini europei in Svizzera, pur mantenendo l'anonimato, Terlizzi. Eh sì, e questo è un punto che anche un po' nella confusione attuale viene dimenticato, perché è un accordo importante che può essere ridiscusso in alcuni aspetti, ma Berna da questo punto di vista, bisogna dire, aveva già manifestato nei mesi scorsi la sua disponibilità a ridiscutere, ad ampliare la base imponibile, perché magari non vengono fuori abbastanza soldi, però era un accordo importante che era un po' una sintesi che conciliava da un lato la convivenza di strutture con segreti bancari, parliamo della Svizzera ma parliamo anche del Lussemburgo, che fa parte dell'Unione Europea, di cui adesso si parla meno, ma se la Svizzera gestisse circa il 30% dell'offshore internazionale, il Lussemburgo, comprendendo i fondi di investimento, si stima che ne gestisca circa il 10%, quindi sistemi come quello svizzero, come quello lussemburghese, come quello austriaco, da un lato questo e dall'altra però la legittima esigenza di avere introiti fiscali da parte dei cittadini della UE che fanno uscire i loro capitali, e quindi ecco il compromesso dell'euro ritenuta. Tra l'altro qualcuno in Svizzera, e segnatamente per esempio l'Associazione delle Banche Estere in Svizzera, oggi propone di estendere questo meccanismo a fare una sorta non soltanto di euro ritenuta ma anche di mondo ritenuta anche con gli Stati Uniti. E in Italia si sta discutendo anche un accordo con qualcosa di forse più piccolo che può essere significativo, che è San Marino. Mancini, a che punto siamo con l'accordo con San Marino per controllare una certa evasione fiscale che si serviva anche del piccolo principato? Ma a sentire i politici sammarinesi siamo molto vicini a un accordo, un accordo di cui si discute da diversi mesi. Mi pare che dopo l'incontro del 28 di agosto al meeting di Rimini con Tremonti, in realtà la conferenza stampa che ne è seguita è stata come dire, una serie di staffilate del nostro ministro dell'economia proprio alla piccola Repubblica, la Repubblica più antica del mondo, insomma, come il Titano, insomma, come si vuol chiamare. E le cifre che dava appunto Tremonti sono quelle delle cifre che obiettivamente hanno poche spiegazioni, del tipo che il contante italiano sembra che venga in qualche modo inghiottito da San Marino, poiché ogni anno vanno verso il Titano 1 miliardo di euro in contanti contro un'ottantina che servono per tutta l'Italia, cioè 30.000 persone contro 60 milioni di persone. C'è qualche motivo di sospetto? Io ho chiamato San Marino Principato, chiedo scusa, pensavo a Liechtenstein o a Monaco. San Marino, come giustamente ha ricordato Mancini, è una repubblica. Bentornati a 9 in punto, complimenti ai nostri ascoltatori. In 30 secondi già quattro messaggi che hanno sottolineato che San Marino non è un principato. Mi sono già corretto, stavo pensando a Liechtenstein, parlando di San Marino. San Marino è una repubblica. Carlo da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Buongiorno, ascoltavo con interesse la trasmissione e volevo intervenire perché al di là del discorsi concettualmente corretti sull'evasione fiscale eccetera, mi sembra che si parta già un po' avanti rispetto al problema. Cioè, l'evasione fiscale è sì un problema, ma secondo me l'evasione fiscale è una conseguenza. È una conseguenza di una percezione che il cittadino ha, l'imprenditore o chiunque operi, di essere in qualche modo trattato male o comunque sfruttato. Cioè, la pressione fiscale è troppo alta e i servizi e le prestazioni che il cittadino ha dei servizi che viene dallo Stato sono troppo bassi. Questo è il punto di partenza. Poi si possono fare tutte le considerazioni possibili e immaginabili sulla necessità o meno di intervenire sul fatto che questo poi di fatto dia un grosso contributo alle finanze, non lo so. In realtà non si va alla radice del problema, e la radice del problema è che abbiamo uno Stato che disperde una quantità impressionante di soldi e una pressione fiscale con tempo troppo alta. Grazie, e indubbiamente se lo Stato disperde dei soldi, abbiamo sempre parlato di sprechi dello Stato, non può certo essere una motivazione, tanto più una giustificazione per l'evasione fiscale. Indubbiamente bisogna concentrarsi sui due problemi. L'evasione fiscale è un problema anche morale, oltre che giuridico, perché pagare le tasse è un dovere, oltre che una necessità per mantenere lo Stato. Ma lo Stato dobbiamo richiamarlo ad essere il più efficiente e il più risparmioso possibile, per non sprecare i soldi cittadini e per non fornire loro degli alibi. Luigi da Firenze, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Io faccio una considerazione invece diversa dal signore di prima. Non è giusto che l'evasione fiscale viene pagata dalle persone dove hanno un reddito e preso dalla fonte. Io praticamente ho letto un articolo dove praticamente c'era Aldo Grasso, sarebbe quello dell'antimafia, che diceva che per quanto riguarda in Italia vi sono 330 filiali di banche italiane nei paradisi fiscali. Allora, se si vuole stroncare l'evasione fiscale, si deve andare perché si deve bloccare la tracciabilità dei pagamenti. È giusto che la persona, l'imprenditore, non venga tartassato, ma non è giusto neanche che i soliti dentisti eccetera dichiarano quello che dichiarano. E poi l'ultima cosa, per quanto riguarda l'evasione fiscale, da un operaio come me oppure come altri, se lo Stato permettesse di scaricare, faccio un esempio, il 20% sull'affitto annuale, oppure all'imprenditore facesse praticamente scaricare qualsiasi cosa, in modo tale che lo Stato non sia... Secondo me l'evasione fiscale andrebbe a scemare e la persona non vedrebbe lo Stato oppressore che richiede anche il sangue. Grazie. Questo problema appunto del poter dedurre le spese che si fanno è una richiesta che viene spesso portata avanti, indubbiamente creerebbe anche molte complicazioni dal punto di vista burocratico per giustificare queste spese, e dall'altro farebbe indubbiamente diminuire anche il montante di redditi tassabili e quindi anche la stessa pressione fiscale. Giuseppe da Trento, buongiorno. Buongiorno. Senta, io ho chiamato perché sono un evasore fiscale, mi spiego, no? Nel senso che io faccio una libera professione, faccio il medico, dentista, e lei sa che i dentisti sono notoriamente degli evasori fiscali, così vengono descritti. Il problema è in questi termini: io negli ultimi 10 anni ho pagato 25.000 euro il mio commercialista per cercare di essere giusto, perché ho anche questa anima cattolica che mi mette in crisi. In realtà ogni tot anni il mio commercialista poi mi consiglia di fare un bel condono per evitare qualsiasi altra complicazione. Io dico, ma tutti questi benedetti soldi non si potevano versare direttamente allo Stato e avere un sistema fiscale molto più semplificato? Secondo problema, le uniche due fatture che io quest'anno non ho fatto mi sono state quasi imposte e richieste da due rappresentanti della Guardia di Finanza, i quali non volevano assolutamente comparire come operatore di spesa dal punto di vista odontoiatrico. È veramente un problema, capisce? Certo, penso che ci sia un problema di complicazione, detto così a grandi linee, del sistema fiscale. Già Luigi Einaudi 50 anni fa diceva che molto spesso lo Stato cerca più di complicare la vita dei cittadini che non di attuare un sistema che fosse trasparente e che oltre all'onere appunto di pagare le tasse non aggiungesse anche gli oneri delle complicazioni burocratiche. In questo senso vorrei sentire Roberto Ippolito. Ma sono state dette cose importantissime, certamente le semplificazioni sono un aspetto essenziale, però attenzione, ho anche ascoltato che nessuna motivazione può giustificare l'evasione fiscale, che è grave sotto tutti i punti di vista, morale, giuridici ed economici. Sentivo parlare di paradisi fiscali, è veramente singolare però quello che sta accadendo oggi in Italia. Lino Terlizzi ricordava l'aggressività, e immagino si riferiva all'aggressività americana nei confronti della Svizzera. Sono stati ottenuti presso l'UBS, dal governo americano, i nomi di evasori fiscali veri o presunti, ovviamente poi da accertare. Non mi risulta che ci sia stata nessuna iniziativa italiana. Ho sentito ricordare che c'è un flusso di contanti verso San Marino che va ogni giorno. Non mi risulta che siano state fatte delle norme per bloccare l'uso del contante, anzi in Italia è successo esattamente qualcosa di diverso, sono state fatte delle norme per allargare l'uso del contante. Allora dobbiamo decidere che cosa vogliamo. Ho sentito parlare dell'Inkestein, nel libro si fa questo esempio, nel mio libro Evasori e mille altri con nomi e cognomi, la lista di 400 possibili evasori che ci è stata data dalla Germania proveniente da Liechtenstein risale a febbraio dell'anno scorso. C'erano imprenditori, cantanti, professionisti. Che fine ha fatto questa lista? Perché questi signori non sono stati indagati? Non ce n'era neanche uno di questi 400 signori che era colpevole. Allora, se vogliamo continuare con i condoni, con perdonare, col non fare nulla, con l'ammettere che si può evadere le tasse, poi tanto, come è stato ricordato un attimo fa, arriva un condono, Tana libera tutti, ma lo sappiamo che cosa è successo con l'ultimo condono? Per 5,2 miliardi i contribuenti che hanno chiesto e ottenuto il condono non hanno poi versato le rate e nessuno sta andando a prendere quei 5,2 miliardi. Per cui si condona e non si incassano neanche le somme dei condoni. Beh, stiamo aspettando forse il condono del condono. Vittorio D'Arold. Sì, volevo solo dire che, attenzione, lo scudo fiscale non è solo una nostra, diciamo così, invenzione. Ce n'è una, anche ce ne sono due, anzi, nei paesi anglosassoni. La tax amnesty negli Stati Uniti e la voluntary disclosure nella Gran Bretagna, che chiede il 3,9% contro la garanzia naturalmente di non essere perseguito, mentre in Italia si passa al 5. E attenzione ancora che gli Stati Uniti hanno chiesto e ottenuto sì 3.000 nomi di possibili appunto evasori dalla UBS Svizzera, ma non sa nessuno chi sono. E quindi il fisco americano, che ha la data del suo scudo fiscale al 23 settembre, sta giocando una specie di pressione psicologica per invitare tutti quelli che si ritengono possibili incriminati, e una specie di super enalotto al contrario. Allora, professor Lottieri, quale strada per sconfiggere l'evasione fiscale? Indubbiamente, ha detto, abbassare le tasse, indubbiamente è un primo passo, semplificare, cercare la strada del super enalotto? Ma io credo che ci debba partire dalla considerazione che faceva adesso Ippolito a proposito del fallimento del condono, cioè lo Stato non riesce nemmeno a ottenere dai cittadini le risorse del condono. Questo ci dice molto sulla totale inefficienza dello Stato italiano, ma in generale direi degli apparati statali. Allora bisogna fare una scelta, secondo me, di fondo, cioè vogliamo, come dire, che nella nostra società prevalga il privato, l'individuale, la responsabilità, quindi, oppure vogliamo, come la scusa della lotta all'evasione fiscale, continuare a ampliare la dimensione collettiva, perché questo è il problema. Poi chiaramente noi sappiamo che quanto più la tassazione è limitata, quanto più è semplice, meno barocca e così, quanto più chiaramente è facile che questi soldi entrino. In altri termini, bisogna passare dalla logica di una pretesa che si basa sulla forza a una logica invece che sia attrattiva. Cosa ha fatto l'Irlanda? Ha abbassato le tasse, ha tirato capitali, vogliamo chiamarlo paradiso fiscale, ma in certe liste dei paradisi fiscali, quella del Fondo Monetario, ad esempio, c'è anche il Regno Unito, quindi voglio dire, questa è la concorrenza fiscale, cioè giochiamola positivamente, cerchiamo di rendere il sistema italiano dal punto di vista legale e fiscale attraente, non solo riusciremo a far pagare di più gli italiani, ma avremo fino degli stranieri che vengono a pagare le tasse da noi. Direi Francesco da Napoli, buongiorno. Sì, salve direttore, buongiorno e complimenti. Volevo sottoporre un problema di evasione un attimo diverso, cioè noi abbiamo alcune aziende sul territorio di San Marino che sviluppano il 99% del loro fatturato in Italia, quindi innescando un fattore di concorrenza sleale verso le aziende italiane che pagano le tasse in Italia che sono, penso, il doppio di quelle che le aziende sammarinesi pagano al loro Stato. Quindi volevo sottoporre questo problema, cioè che ci troviamo sul nostro territorio aziende che hanno dei costi, cioè delle tasse che mi sembra che si aggirano intorno al 13-17% totale, e fanno una concorrenza sleale, credo, alle aziende italiane che pagano le tasse regolarmente sul territorio italiano. Grazie. Lionello Mancini. Sì, sì, è assolutamente ragione l'ascoltatore. Questo della esterovestizione di imprese, di nome di imprese, ci sono delle società che hanno, diciamo, proprio il doppio nome semplicemente, e in quella italiana non si sviluppa nessun tipo di fatturato, e invece in quello, nella stessa ragione sociale, lo stesso nome sammarinese, lì avviene tutto, chiaramente la tassazione è molto, molto favorevole. Se posso aggiungere una cosa su quanto diceva prima il professor Lottieri, sono molto d'accordo con Ippolito, devo dire, perché San Marino è la dimostrazione che dal professionista all'imprenditore, al salumiere, al commerciante, questa tendenza a sottrarsi al dovere delle tasse è una tendenza che ha molto a che fare con la cultura di ciascun italiano. Il professor Lottieri parla di paesi, probabilmente quello di affidarsi più all'iniziativa, al privato, eccetera, in cui però un ministro, se non paga i contributi della governante, si dimette. Qui in Italia invece mi pare che le cose vanno diversamente. Prima di lasciare la linea al traffico vorrei risolvere un piccolo contenzioso con gli ascoltatori che ci mandano i messaggi al 349-238-6666. Mi dicono, ma neanche il Liechtenstein è un principato, è un granducato. Lino Terlizzi, il Liechtenstein è un principato? Il Liechtenstein è un principato perché è governato da un principe, ma è vero che la dizione originaria era granducato. Quindi abbiamo ragione tutti e due. Grazie, hanno ragione un po' tutte e due. Grazie per questa salomonica decisione. Bentornati all'ultima parte di 9 in punto. Stiamo parlando di paradisi ed evasione fiscale. C'è una domanda da Elena, 349-238-6666. È possibile che le isole Cayman, che sono un grande paradiso fiscale, stiano fallendo? Vittorio da Rord. Sì, è una assolutamente, quasi sembra un paradosso, ma la situazione è che le Cayman, che sono appunto come numero per gli hedge fund che hanno al primo al mondo e quinto per attività bancarie, sono quindi tra i paesi, vista la popolazione che è solo di 51.900 abitanti, uno dei paesi più ricchi al mondo, anzi il 12° più ricco al mondo. Ma cosa è successo? La crisi ha fatto scappare o ridurre il numero di banche e di istituzioni finanziarie, perché la tassazione era semplicemente basata sul numero di dipendenti delle banche che appunto aprivano una filiale alle Cayman, e questo quindi ha creato un vuoto, un buco nel bilancio, e quindi, ahimè, il paradosso, ecco ora che le Cayman devono alzare le tasse, anzi introdurre le tasse. Ahimè per loro, ogni tanto si paga anche il conto di chi vuole essere ricco con i soldi degli altri. Allora sentiamo Stefano da Roma, buongiorno. Sì, un saluto a tutti i partecipanti. Dunque, io sono un medico ospedaliero, la mia tassazione tra diretta e indiretta si aggira intorno al 65%, tra IVA e via discorrendo. Inoltre sono un delegato di cittadinanza attiva e quindi come cittadino faccio notare questo, che c'è un patto storico, lobbistico trasversale tra i cittadini italiani e i governi che si sono succeduti nell'arco degli anni, e su questo fatto qui. Cioè io credo che quando c'è un governo che veramente vuole in buona fede affrontare il problema dell'evasione fiscale, quel governo viene fatto cadere in un modo o nell'altro, come è stato quello che stava facendo Tremonti. È lo stesso patto che c'è nelle regioni del sud tra i poteri mafiosi e buona parte dei cittadini. Cioè è così, noi non possiamo paragonarci agli americani, in Italia nessuno è andato mai in galera per evasione fiscale, non possiamo paragonarci a questa gente qui. Beh, la sua ipotesi è un po' inquietante, ci sarebbe un patto sociale quel patto che secondo i classici della politica dovrebbe essere alla base dello Stato, della legittimità dello Stato, che garantisce invece l'illegittimità. Certo, io sono convinto di questa cosa, cioè... ai tempi di Andreotti, dei governi Andreotti, ho sentito gente, professionisti, dire speriamo che questi governi durino molto perché noi ce la caviamo bene, professionisti, liberi professionisti, questa è la verità. Grazie. Tremonti ha fatto tremare i polsi a molte persone, ecco. Grazie. Carlo da Padova, buongiorno. Sì, buongiorno, saluto tutti. Senta, la mia era una domanda un po' provocatoria, ma fino a un certo punto. Secondo voi è più produttivo per la crescita economica del paese un sistema fiscale che drena sistematicamente enormi quantità di risorse che poi sappiamo come riesce a spendere, oppure una certa evasione che lascia nelle tasche dei consumatori un po' di liquidità che appunto stimola poi l'economia attraverso una crescita dei consumi. Grazie. Grazie, io sentirei Carlo Lottieri che forse un po' di simpatia per questo ascoltatore ce l'ha, però la legalità andrebbe salvaguardata. Lottieri. Ma sa, la legalità deve anche farsi rispettare, voglio dire, anche il regime di Hitler era un regime legale ma non aveva alcuna rispettabilità. Beh, però quindi... il paragone mi sembra un po' eccessivo. No, non è per certo, non voglio mettere tutto al suo piano, però voglio dire, tutti gli intervenuti hanno fatto presente, anche chi ha difeso la lotta all'evasione fiscale, la più dura, come male vengono utilizzate queste risorse, quindi poi non si può aspettare che il cittadino, come dire, butti in un fondo senza, in un pozzo senza fondo queste risorse. Ecco, non dimentichiamo i dati, 43,4% prelievo record, è un patto veramente curioso nel caso, quello che c'è tra gli evasori e lo Stato, siamo arrivati a questo livello di pressione fiscale, 43,4%, e aggiungiamo quel 7% ipotetico di evasione fiscale, si arriverebbe alla somma davvero folle superiore al 50%. Credo che, come dire, la resistenza delle popolazioni di fronte a, come dire, un dominio eccessivo della classe politica, a un esproprio esoso e illimitato, sia una cosa normale. Non dimentichiamo che le grandi rivoluzioni furono tutte rivoluzioni fiscali, cioè di fronte all'arbitrio, di fronte, come dire, alla cattiva gestione, di fronte all'oppressione, la gente poi alla fine può anche ribellarsi. Beh, a Milano hanno dedicato una via a un assessore delle tasse che nel Settecento era un po' troppo esoso ed era stato lapidato dalla popolazione. Roberto Ippolito, qualche alibi comunque l'inefficienza dello Stato agli evasori lo dà, io parlerei solo di alibi perché scusate, poi... però no, mi dispiace, sento argomenti assolutamente importanti e giusti perché la qualità dei servizi e, come dire, è ciò che deve essere dato in cambio dei soldi che paghiamo, ma nulla, sottolineo nulla, nulla mai può giustificare l'evasione fiscale, perché allora con questo principio, in base al fatto che c'è la crisi, che Roberto Ippolito in questi giorni per combinazione sta guadagnando meno, fra poco io vado al supermercato, mi rubo una cosa, non la pago e dirò A, che è troppo cara, B, che sono in crisi ed è meglio che mi tengo qualche soldo in tasca. Stiamo attenti con questi ragionamenti, non facciamo della crisi un alibi, non facciamo della stessa inefficienza dello Stato che esiste un alibi, combattiamo sicuramente per lottare gli sprechi, ma attenzione, le tasse si pagano e paesi che hanno un livello di tasse superiore al nostro, la Francia, il Belgio e tutti i paesi scandinavi, laddove non è detto che i servizi siano assolutamente meglio o tutti migliori dei nostri, magari nei paesi scandinavi abbiamo uno stato sociale assolutamente migliore, non è detto che in questi paesi l'evasione fiscale sia superiore, non risulta da nessuna parte. Però in questi paesi è un po' più facile pagare le tasse. Anche ma certamente tutto ciò che può essere migliorato è assolutamente fondamentale, però allora insisto, non eliminiamo la possibilità, combattiamo l'uso del contante, mettiamo il conto corrente per i professionisti, facciamo tutto ciò, ripristiniamo l'elenco fornitori e clienti, ripristiniamo e mettiamo e inventiamo ed escogitiamo tutto ciò che può semplificare e tutto ciò che però consente di far pagare le tasse. Mentre qui, ricito ancora una volta la Corte dei Conti, che ci parla recentissimamente di evaporazione dei risultati dell'attività di controllo per eccesso di transazione, che vuol dire, al di là di queste formule un pochino astruse, che si trova sempre un sistema per perdonare l'evasore fiscale, e il risultato è stato detto un attimo fa: se la pressione fiscale è 43,4 come media totale, vuol dire che i signori che fanno onestamente il proprio dovere fiscale pagano 9 punti in più. Non lo dice Roberto Ippolito con il suo libro Evasori, lo dice il governatore della Banca d'Italia Draghi. Parla di cittadini fiscalmente onesti, parla di cittadini ligi. Su quei cittadini ligi pesa una pressione fiscale di almeno 9 punti in più. Pochi mesi fa lo calcolò la Confindustria. Quindi vogliamo continuare in questa ingiustizia? Vogliamo che qualcun altro paghi a carico al posto di qualcuno che non paga? Se vogliamo tutto questo, penso che sia un paese incivile. Permettetemi un'ultima cosa, vi chiedo scusa. Rapidamente. Che ho rubato. Si parlava prima di un patto, probabilmente l'ascoltatore ha brutalizzato ed estremizzato un concetto che però è tragicamente importante e delicato. Ricordiamoci che l'evasore vota. Se qualcuno oggi o ieri o domani vuole far proprie le ragioni dell'evasore fiscale, ottiene il suo voto e poi gli dà i provvedimenti che l'evasore desidera. Quindi, grazie Roberto Ippolito. Siamo purtroppo in conclusione. Io vorrei lasciare lo spazio anche al professor Iotera e agli altri ospiti, ma il tempo è passato troppo veloce. Vorrei solo cercare di tirare una conclusione, ma molto rapidamente. Indubbiamente l'evasione fiscale resta un problema in Italia. È un problema però che va visto sotto tutti gli aspetti, e privilegiare un aspetto rispetto a un altro forse non è giusto. C'è l'aspetto appunto del dovere quasi morale delle persone di contribuire al quel patto sociale che regge lo Stato, c'è il dovere dello Stato di realizzare quei servizi che ogni persona e ogni società civile deve avere, c'è il dovere dello Stato di semplificare appunto il compito di pagare le tasse e di essere equo nella tassazione. Beh, c'è soprattutto anche da parte dei cittadini, lo ricordava Ippolito poco fa, il dovere di partecipare a una società democratica, che sia una società in cui anche dal profilo finanziario ci sia la partecipazione di tutti e la capacità di tutti di sentirsi cittadini e non di sentire lo Stato come una controparte, qualcosa che ha detta degli obblighi e detta delle cose che sono oppressive verso le persone. Quindi una realtà costruttiva da parte di tutti, quello mi sembra che possa essere un po' il bilancio, pur di tante critiche, abbiamo avuto anche tante critiche nei vostri messaggi, pur di tante sollecitazioni ad essere ad uno Stato più efficiente, pur di tante condanne doverose a chi gira con macchine di lusso o ha degli yacht e paga pochissime tasse perché riesce in vari mezzi a eludere il fisco, se oltre che a evadere. Con questo ci fermiamo qui. Io ringrazio Vittorio D'Arod e Lionello Mancini, ringrazio Lino Terlizzi, Roberto Ippolito e Carlo Lottieri che ci hanno aiutato a navigare in questo grande problema del fisco. Ringrazio soprattutto gli ascoltatori che ci hanno seguito in queste settimane. Da lunedì tornerà Oscar Giannino a quest'ora a 9 in punto. Grazie, arrivederci.